Ripartiamo dalla settimana scorsa, quindi prima del giro di lettere, questo carteggio diciamo tra il presidente Conte, Confindustria e i sindacati. La scorsa settimana i lavoratori, dopo il decreto dell'8 marzo, hanno sostanzialmente iniziato a scioperare e chiedere maggiore protezione, perché di fatto sono i soggetti ridotti a carne da macello anche in produzioni che in questo momento sono ferme, banalmente non tanto per il nostro lockdown anche, ma perché comunque tutta l'attività economica si sta in qualche modo riassorbendo, perché questa non è una crisi soltanto italiana, ma anche per il fatto che appunto sono persone, se pensiamo al caso di Milano, in cui 300.000 lavoratori ancora continuano a fare i pendolari per andare a lavorare. Questo sostanzialmente ha sollecitato i sindacati, che già comunque nei luoghi di lavoro stavano procedendo a comunque fare le verifiche, a chiedere protezioni, a fermare le attività e scioperi, quindi sostanzialmente a riaprire la questione su che quali sono le misure effettivamente che possono fermare o comunque ridurre questo contagio. Non a caso appunto la questione della produzione delle attività lavorative non essenziali. Sabato sera abbiamo avuto il messaggio di Conte, fatto appunto non su un canale TV o la radio, ma sulla propria pagina Facebook, no? Con queste strategie mediatiche, quindi con una lista che sostanzialmente era già abbastanza lunga, cioè per dire i call center per uso commerciale venivano comunque mantenuti come forme di produzione essenziale, non se ne capisce. Comunque tutte le filiere, quello che era stato bloccato principalmente erano molti pezzi della manifattura e dell'industria estrattiva. Domenica Confindustria, a parte tutte le interviste e dichiarazioni sui giornali per cui noi italiani abbiamo un senso antiindustriale secondo Bonomi, e quindi in realtà le imprese continuano a rimanere il soggetto più titolato, perché non soltanto mandano avanti la ricchezza di questo paese, ma stanno anche facendo la carità donando alla sanità e così via, chiedono sostanzialmente di bloccare il decreto, ritardarlo nell'applicazione a mercoledì, ma di estendere anche i settori coinvolti. Questo sostanzialmente è una misura che viene ripresa in qualche modo da Conte, non a caso la versione definitiva rimette dentro tutta una serie di pezzi di manifattura come essenziali, tra cui quelle delle armi, appunto rimangono i call center, viene riaperta la partita sull'estrazione di carbone, di petrolio, quindi tutta la filiera anche, no? Perché non parliamo soltanto del settore, ma tutta la filiera che produce per quel settore finale. La cosa più grave forse di quel decreto è che il comma D dice sostanzialmente che chiunque lavori in una produzione per cui sostanzialmente, no, il prodotto finale rientra in uno di questi 80 settori può comunque continuare a lavorare, pure se stai producendo qualcosa che non è essenziale nell'attività di una produzione diciamo inclusa negli 80 settori, e sarà il prefetto in caso poi a decidere di chiudere l'attività. Quindi di nuovo la prova e la denuncia a carico dei lavoratori vulnerabili, ricattati eccetera, e immaginate, come dire, il potere politico tutto in mano ai prefetti. Diciamo che a seguito di questa imbarazzante e responsabile azione di Confindustria, di Assolombarda e quant'altri, i sindacati effettivamente hanno cominciato a rivoltarsi con dei comunicati ieri sera dicendo ci avviamo verso uno sciopero generale se non fermate tutto, e comunque hanno dato mandato in tutti i luoghi di lavoro a sostanzialmente adottare iniziative, qualsiasi diciamo azione di lotta in vista dello sciopero. Questa diciamo è la sintesi ad oggi. Ora l'ultima arma nelle mani dei lavoratori per salvaguardare la propria salute è lo sciopero a questo punto. In questa fase bisogna davvero, cioè innanzitutto rivoltarsi e dare battaglia nei luoghi di lavoro, non presentandosi, quindi comunque agire attraverso lo sciopero, che significa bloccare le produzioni come sempre, cioè uno strumento classico rimane lo sciopero ed è quello che fa più male. Allo stesso tempo è vero che in questi giorni diciamo verso lo sciopero una delle cose che possono essere fatte attraverso appunto i rappresentanti per la sicurezza sul lavoro è agire attraverso altri strumenti che appunto permettono di astenersi dal lavoro se non ci sono le condizioni, il che però per i lavoratori per esempio che sono pendolari comunque significa arrivare fino al luogo di lavoro, quindi da questo punto di vista in qualche modo lo sciopero ti permette proprio di evitare tutta quella parte di potenziale contagio, di rischio per questi lavoratori e per le loro famiglie prima. C'è qualcuno che ha definito questa situazione come un chiaro esempio di lotta di classe, però a questo punto dalla parte dei padroni, sei d'accordo? Ma certo, indubbiamente, cioè loro per qualche spicciolo di ricavo in più stanno davvero vendendo la vita dei lavoratori e delle loro famiglie. E devo dire una cosa, cioè non la chiamerei neanche più lotta di classe, cioè lotta di classe è una cosa quasi elegante rispetto all'orrore che di cui si stanno macchiando, cioè chiamiamo le cose anche con delle parole forti e dure, perché non si capisce davvero perché bisogna andare avanti in queste condizioni, anche perché la crisi economica è davanti, più ritardiamo la possibilità di in qualche modo combattere il contagio messaggio, più di fatto, come dire, acceleriamo e prolunghiamo la crisi economica internazionale che abbiamo davanti. Tra l'altro, infatti, quello che hanno fatto, non ci scordiamo che durante la settimana hanno chiamato un tavolo alla tutela, quindi Confindustria chiama governo, Confindustria e banche, dicendo, intitolando le misure tutela del lavoro, dove sostanzialmente si chiedeva tutto per le imprese, liquidità, crediti, blocco dei pagamenti e di tutte le tasse, e poi sul lavoro, la cosa davvero imbarazzante, nel punto ultimo, per la tutela del lavoro apriremo un tavolo di osservazione sulla tutela del lavoro. Però ecco, con una battuta, tra gli 80 settori che rimangono aperti, purtroppo c'è anche il codice Ateco 94, che è quello associazioni datoriali. Forse sarebbe stato il caso, diciamo, di intervenire.